Ladies and gentlemen, from Cipriana, Sicily, Devastito! Oggi è Ferragosto ed accoppiamoci, non parliamo troppo, no. Tutte le ragazze sono libere, si concedono con noi. Da lontano vedo una tipa che mi strizza l'occhio e poi sbalordito mi avvicino e penso che, ma che grande occasione, ma che grande occasione, ma che grande occasione. Penso che tu sia un tipo facile per me. La conquista con te è troppo semplice perché per me tu sei l'unica troia. Ti prego di venire con me sul lungomare perché ti voglio dare qualcosa di speciale. Ti prego non strillare ma non ti preoccupare. Chiamare sinonimo di usare te. Ti prego di venire con me sul lungomare perché ti voglio dare un qualcosa di speciale. Ti prego non strillare ma non ti preoccupare perché ti voglio amare. Sinonimo di usare te. Ferragosto, yeah yeah, sabbia arrosto. È un fiume d'alcol che scorre bene nelle tende dell'amore, non ci sono regole. È Ferragosto, oh oh, yeah yeah, yo yo yo. Ma quando arriva lo sceriffo sole ad avvertirci con i raggi che è finita la magia dell'amore. È Ferragosto, yeah yeah, è Ferragosto, le mani a posto.